Check. Mic two. Give me a mic. Finally do my jiggers from the jiggers to your spaceships. This is song of a motherfucker that can suck my dick. This is a cappella. Next, be registered your instrumental. Capito, bitch? Toca. Feeling in poison dream. Questa facciamo che è la parte più spirito. Un po' fake, sta così. Non so che cosa. To me, this is a life.